finisce la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. 22:54 minuti primi, le frequenze di Radio Onda Rossa, questo è 25 o'clock. A dire il vero, un po' a intermittenza. Nell'ultimo periodo. Però quando possiamo facciamo. Ma siccome siamo autistici della dislocazione e della preparazione della trasmissione, per cui se c'è qualcosa che non quadra, vi lasciamo un secondo. Eccoci qua di nuovo. Sì, c'era una luce accesa di troppo e questo ci disturbava assai nel proseguio. Vabbè. Abbiate pazienza. Dicevamo, le frequenze di Radio Onda Rossa nel 1977, grazie a voi tutti e voi tutte che ci sostenete, è partita la campagna per il 2020 di abbonamento alla radio, la 30 per 1000, 30 euro per 1000 di tutte voi. Già a pochi giorni dalla partenza si è raccolta una bella cifretta. Se siete curiosi di sapere, basta andare sul sito della radio www.ondarossa.info, andare su in alto, bello, c'è un bannerone dove viene lanciata la campagna per il 2020, ci cliccate dentro e capite pure quante persone già hanno sottoscritto. E soprattutto, dal momento che ci siete, sganciate sti 30 euro e permettete alla voce libera nell'etere di Radio Onda Rossa di continuare a fare la... Là, sono cambiate tante definizioni in questi tanti anni. La comunicazione antagonista, la controinformazione, l'informazione. Tutti termini che non sono sinonimi affatto, ma che riflettono poi quello che è il ruolo della radio, che continua a fare in verità un po' tutte queste cose. Una realtà unica o rarissima, una necessità per i compagni e le compagne, i movimenti tutti, di avere una voce di riferimento quando si ha la necessità di comunicare le lotte, comunicare quanto si produce nei territori, nelle scuole, nelle università, nei posti di lavoro, nelle piazze, nel sociale, insomma. Questa è Radio Onda Rossa e anche molto di più da 40 anni. E ovviamente anche un luogo di dibattito dove è possibile approfondire temi e ricerche, dove soprattutto è possibile intervenire. Avete sentito tutti i numerosi spot preparati sapientemente da compagni e compagne della redazione, che però ancora in quanto a lezioni di canto devono migliorare molto, quindi per fare in maniera tale che gli spot lentamente si esauriscano, se questo è il vostro scopo, ovviamente bonariamente parlando, non dovete far altro che mettere questi 30 euro attraverso la campagna di radio abbonamento. È gradito anche il vostro intervento qua via De Volci 56 per portare in bocca il denaro, e ovviamente anche più di 30 euro sono importanti e graditi. Il perché della campagna di sottoscrizione è scritto sul sito della radio, ve lo ripetiamo sommariamente: la radio ha bisogno di questi soldi per vivere in tranquillità per un anno, senza la spada di Damocle di bollette, bollettini, di tasse e di impicci vari. Non sempre si riesce, anzi non si riesce affatto ad arrivare a questa cifra con le iniziative della radio, per cui voi tutti e tutte che ascoltate la radio dovete fare questo piccolo sforzo di 30 euro che sono poco più di due caffè al mese, quindi dagli. Dicevamo 25 o'clock dopo il consueto problema tecnico per chi è stato attento ad afferrarlo. 25 o'clock che questa sera si approccia ad intraprendere un viaggio, ne abbiamo fatti tanti in questi anni, però ci è capitato sovente in queste settimane, in questi giorni, in queste settimane, di dover percorrere le strade umide e nebulose nella notte. Abbiamo immaginato esattamente la situazione inversa, cioè se vi trovate da qualche parte in città oppure nella suburbia, nella periferia, nelle zone di fuori, negli stradoni, con i vostri mezzi di trasporto, avremmo e preferiremmo che fossero delle biciclette oppure a piedi oppure il mezzo pubblico, magari andando a vedere eufemisticamente e relativisticamente la strada che scorre dal finestrino. O piuttosto abbiamo pensato a tutte quelle persone che di notte girano con i furgoni perché lo fanno per lavoro. Perché in qualche misura sono in viaggio. E abbiamo pensato ancora di più a quelle persone che invece portano i camion, quei colossi, che devono girare per... perché è un lavoro come tanti altri, che regge la nostra economia, benché di merda. Ed è un lavoro duro, è un lavoro dove si lavora, insomma. E perciò abbiamo immaginato di intraprendere non un viaggio dall'altra parte del mondo, ma appunto percorrere le strade qua intorno. E quindi... Quindi si comincia con Bud Spencer Blues Explosion. Questo è Camion. Thank you. perso un occhio, che ero bambino, ne ho pure un altro, sta lì vicino, mi serve per vedere, non l'avranno mai, mamma perdonami, mi porta solo guai, mi porta solo guai. San Ferdinando, nel profondo sud, la California della schiavitù, santo che a Ventimiglia, tra i caschi dei soldati, la primavera porta negri congelati. Non dormo più la notte, bevo per non urlare, ho le mani rotte, mi serve una lamiera, dentro qui ci piove, non cercarla in giro, chi cerca troppo muore, chi cerca troppo muore. Senti i passi, vibrano i bandoni, per darci la sveglia, battono i bastoni. Oh mamma mia, tuo figlio è un disgraziato, sarebbe stato bello, non fossi mai nato, non fossi mai nato. E non poteva essere che questo viaggio notturno non veniva facilitato dall'accompagnamento che ci fa Pat Coladino Dunham. Lavoro del 2019. Ascoltare tutto quanto dall'inizio alla fine. Forse è colpa anche nostra che non lo spingiamo abbastanza, però fotografia. Qui Pat ci ha accompagnato fino a San Ferdinando, dove pellule verso lavori impossibili, venditori di pesche e di peroni arrancano dal finestrino, da giovani nulla facenti rigettano quello che resta della notte, del nostro pullman, del nostro mezzo di trasporto, del nostro camion, del nostro furgone, della nostra bicicletta, della nostra moto, del nostro scooter su cui lavoriamo. La linea del treno, entra pure, mettiti là. Osserviamo, vediamo quando è possibile, quando la strada ci passa abbastanza vicino. Mi sangue al posto di burro e marmellata, va bene lo stesso. Ho provato a dire alle persone che abbiamo sbagliato strada, ma non vogliono ascoltare, non ci provano nemmeno. Meglio una grande gabbia che un piccolo mondo libero. Abbiamo palazzi vuoti. E noi non possiamo che ringraziare questo ragazzo, Pat, e un esercito di morti di fame, che ha l'abilità, la facilità, la possibilità di scrivere e di farci emozionare. Ma l'acqua la dobbiamo chiedere in ginocchio e non provare a dire. E quindi dopo camion propaganda del tempo, dell'esecutivo che hanno votato, che affronta la formazione di un governo in diretta su canale C. Ma attraversiamo di nuovo campi e periferie reali, dove le e lo facciamo invece passando sovversivi e le e utilizzando la colonna sonora che ci viene da oltreoceano. Tuo fratello, non gli chiedere un pezzo di pane quando hai fame, o un rifugio se ti senti in trappola. Potremmo pure lui era il primo batterista dei Caius. L'idea di tutto questo è che forse l'ironia di... E malgrado che c'ha una storia lunghissima e ancora abbastanza giovane, perché suonava nei Caius la batteria quando c'aveva 16 o 17 anni. Agli inizi degli anni 90, quindi Brand Bjork, Lazy Wizard. Dal lavoro di un paio d'anni fa che si chiama Man and Woman. Brand Bjork, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Segue il nostro viaggio, o almeno la nostra suggestione, o almeno il nostro intento di cercare di trasportarvi, di aiutarvi, di accompagnarvi nella notte e di vedere attraverso il buio quello che c'è, attraverso le luci sbiadite e nebbiose. Perché in fondo si vede quello che si vuol vedere. E questo accade quando si hanno gli occhi bene aperti o quando si sa guardare nel punto esatto o occorre guardare, altrimenti è tutta pubblicità, tutto fumoso spettacolo, tutta propaganda. E proprio a proposito di questo, di rivolgere lo sguardo, di rivolgere la mente, di concentrarsi sulle cose importanti, saper aprire mente e cuore. Primo febbraio, giornata di mobilitazione nazionale contro i CPR, la macchina delle espulsioni a Roma alle ore 15, presidio a Ponte Galeria. La macchina delle espulsioni in Italia si trova in un momento particolare. Da una parte le rivolte, le lotte dei reclusi che negli ultimi mesi a Roma, Bari, Torino, Caltanissetta, Trapani e Gradisca tentano di mandarla fuori strada e far chiudere i centri della detenzione amministrativa. Dall'altra, chi governa deciso a potenziare questa macchina, come mostra la recente apertura del CPR di Gradisca e Magomer. E Magomer tra l'altro è un ex carcere, tanto per dirla tutta, fine inciso. Dicevamo, l'apertura dei CPR di Gradisca e Magomer e la prossima di Milano, a farla girare più spedita che noi sappiamo che mai, spianando la strada a ogni potenziale ostacolo. La scelta di un ex carcere per il CPR di Magomer, ecco, infatti è citato anche qui, le reti elettrificate in quello di Gradisca e il sequestro di telefoni a Torino e Gradisca, misura che minaccia di estendersi agli altri centri e diventare la norma. Sono chiari i segnali di un tentativo di indurre ulteriormente la detenzione amministrativa. A questo si aggiungono gli arresti, le espulsioni, i pestaggi, le condizioni in cui sono lasciati i reclusi dopo le rivolte a dormire nelle mense o fuori al freddo senza servizi igienici. Una politica del terrore che ha portato alla morte di due reclusi. Ayem Mekni, tunisino di 34 anni, il CPR di Gradisca, e Vue, georgiano di 37 anni, in quello di Caltanissetta e in quello di Gradisca. Ammazzato di botte dalle forze dell'ordine, due omicidi di Stato che dovrebbero impaurire gli altri reclusi e scongiurare la possibilità che qualcun altro si ribelli. Nel frattempo, a Caltanissetta come a Gradisca, i compagni più vicini ai due reclusi uccisi vengono espulsi in fretta e in furia per togliersi di mezzo scomodi testimoni. Contro il coraggio, la rabbia o la voglia di libertà espressi dai reclusi durante le rivolte, lo Stato ha deciso di vendicarsi utilizzando tutti i mezzi a sua disposizione. La determinazione con cui le persone rinchiuse in questi momenti, in questi monumenti all'infamia di quest'epoca, hanno da sempre affrontato la loro reclusione. That's nailed to the hoof for the beast you once knew a little too well. Dicevamo, la determinazione con cui le persone rinchiuse in questi monumenti all'infamia di quest'epoca hanno da sempre affrontato la loro reclusione dovrebbe essere d'esempio per noi fuori, specie in un momento come questo in cui le condizioni di vita e di lavoro all'interno della città si fanno sempre più dure. E se non riusciamo ad alzare la testa, l'aria continuerà a farsi sempre più soffocante. Non possiamo lasciarli da soli nelle mani degli aguzzini di Stato. Invitiamo una giornata di mobilitazione nazionale contro i CPR e la macchina delle espulsioni per sabato 1 febbraio, appunto, appuntamento a Roma alle ore 15 a Ponte Galeria. Avevamo iniziato questo girovagare per le strade e per gli stradoni della periferia a bordo del nostro mezzo con Cesare Pidulicchio e Adriano Viterbini in arte Bud Spencer Blues Explosion. È uscita invece una pubblicazione solista di Adriano Viterbini qualche tempo fa. Cri- credo nel 2018 pure questa o qualcosa del genere. Si chiama Filmo Sound. Ed è ovvio che anche chi suona si lascia influenzare dal viaggio e dal suo vedere fuori dal finestrino o del suo ascoltare i suoni. E Tunga Magni o Magni, non sappiamo quale sia la pronuncia corretta, fa capolino ad alcune ritmiche della placca continentale che sta al nostro sud, cioè di quel continente africano, che bene o male noi pensiamo più bene che male. Make you wonder as the song plays, if a bird sings, then the cat pays. Potrebbe portarci quella giusta aria fresca a questo stantio, esercizio stanco del potere nei paesi del nord e occidentali. Quindi Adriano Viterbini, Tunga Magni. Hey, if I get it, I need quelle cose di hey, that's good to need quelle cose di hey, that's good to need I'm a dry eating a hen. Catturé e la chitarra di Ray Kudan. Tolki Kimbuttu. Disco del 1994. quindi siamo passati dall'Algeria, dal Mali. Di Ali Farka Touré. Aymaran, che invece vengono da un'altra strada, da un'altra periferia, da un altro luogo, sempre in Africa. Che è l'Algeria. Ancora deserto algerino. Ma dal momento che la nostra Suburbia, quella che guardiamo scorrere fuori dal finestrino, è una Suburbia del mondo, non ha luogo, non ha coordinate geografiche. Andiamo a vedere cosa c'è fuori da questo finestrino. In quel di Benevento, dove c'è stata una provocazione poliziesca al Janara Squat. Due giorni di militarizzazione delle zone calde del centro, di magica scomparsa del pattume dalle strade per fare largo al pattume nazionalista, quello di una passerella che nei piani del primo cittadino Mastella si sarebbe dovuta salutare a suon di tricolori calati dai balconi cittadini. A chiudere i preparativi non poteva mancare una bella provocazione poliziesca alla vigilia della visita del presidente Mattarella a Benevento. Poco prima delle 20, due poliziotti lasciano la volante di servizio a Pazzi Avari ed imboccano via Nicolò Franco con l'intenzione di andare a controllare una macchina in sosta di fronte al cancello del Teatro di Simone. Sulla porta del Janara Squat un compagno fuma una sigaretta. Gli agenti, resisi conto che l'auto in questione è di nullo interesse operativo e trattandosi di parenti di altri residenti, tornano indietro. Uno dei due poliziotti si ferma al portone del Janara esclamando: campione, tu abiti qua, e pretendendone i documenti. Il compagno gli risponde di averli nella giacca all'interno dello spazio e che se li vuole deve aspettare che vada a prenderli. Il poliziotto pretende di accompagnarlo e fa per entrare all'interno dello squat. Il compagno gli ribadisce che la sua presenza all'interno non è gradita. E che deve aspettare fuori. La risposta repentina di uno dei due è quella di afferrare il compagno, trascinarlo nel terra, immobilizzarlo con un ginocchio sui testicoli e le mani alla gola. L'altro poliziotto irrompe all'interno del Janara. I compagni presenti sentono il trambusco e corrono alla porta in soccorso del malmenato, sospingendo la gente all'esterno. Dopo un po' di tira e molla riescono a rimetterlo in piedi, seppure i due energumeni in divisa continuano a tenerlo per i polsi e a strattonarlo provando a portarlo via. Sopraggiunge un'altra volante e quindi un individuo in borghese che si qualifica come vicequestore. Fa qualche telefonata mentre gli agenti continuano a provocare volgarmente, seminando all'interno dello spazio stia preparando qualcosa per la venuta di Mattarella. In realtà a bollire in pentola purtroppo c'è solo pasta e broccoli. Gli agenti continuano a insistere ad entrare a identificare i presenti. Arriva un agente della Digos che conosce tra virgolette i compagni. La situazione si ridimensiona, vanno via tutti consapevoli, i dirigenti. Che brutti incidenti alla vigilia di un evento come quello che i padroni della città stanno imbastendo. Potrebbe spingere, oltre ai soliti noti, anche qualche sincero democratico a voler uscire di casa domani mattina per affermare pubblicamente che i lavoratori proletari gli sfruttati vivono decisamente meglio senza presidenti e senza padroni. A margine della vicenda è necessario fare alcune precisazioni. La gente è penetrato all'interno del Janara. Una volta messo alla porta ha rubato la chiave inserita nella serratura, successivamente abilmente recuperata. Il compagno costretto a terra, oltre a riportare una ferita alla mano, si è ritrovato nelle tasche quella che doveva essere quelle dove aveva messo le mani il poliziotto mentre gli stava sopra, con la scusa di una perquisizione, un involucro di celofan contenente dell'hashish. Il fatto dovrebbe dirla lunga alla società civile su come vadano certi fermi di polizia. L'episodio ancora una volta ci conferma che la democrazia non è il contrario della dittatura, ma che a separarle è una mera questione di intensità, che all'interno come all'esterno dei confini le regole democratiche valgono solo per coloro che si riconoscono nel sistema democratico. Contro i nemici della democrazia lo Stato non è tenuto a rispettare alcuna regola, né ovviamente tutto virgolettato. Nella guerra come nella repressione interna ai diritti, il diritto segue due binari, uno per i cittadini che delinquono, l'altro per i nemici che attendono la democrazia. Per i secondi non è prevista alcuna riabilitazione, sono non cittadini a cui è concessa una sola via d'uscita, la resa. La resa non può appartenerci, la resa non appartiene alle rivolte, né può essere un orizzonte contemplabile dinanzi alle barbarie dello Stato, patriarcato e capitalismo. Ci proponiamo come ci propinano come unica opzione esistenziale. Momenti come quelli di stasera ci consegnano semmai due verità: che è giusto e necessario continuare ad immaginare e a costruire un mondo diverso senza stati né polizie, e che bisogna farlo a partire dalle macerie del vecchio mondo. E questo è un comunicato del gruppo anarchico Senza Patria. Gli 87.9 la modulazione di Radio Onda Rossa. www.ondarossa.info il sito. E ancora. Per chi volesse mandare comunicazioni come questa a questa emittente, a questa radio, ondarossa@ondarossa.info è la email della redazione. Chi volesse invece importunare il sottoscritto, magari sottoporgli qualche proposta musicale, 25 o'clock, 25 scritto a numero 25 o'clock, @ondarossa.info. Illuminate di rosso la redazione della radio più rossa che c'è, 06 49 17 50. ancora veloci su una strada a tre corsie. I fari delle auto ci vengono incontro e scorrono i lampioni intorno a noi. E quelli che girano del lettore sono Radio Moscow. E queste erano le loro What Rose Morning Drifting. E nel frattempo andiamo a presentare quella che sarà la prossima traccia che vi accompagnerà nel vostro città per la Suburbia. Si tratta di William Elliott Whitmore. Che ha iniziato negli anni 10, i primi 10 anni del 2000, con una band, una punk band che si chiamava Ten Grand, e poi è passata al blues. E lui scrive così: non ti preoccupare, sto solo vivendo qui, non ti preoccupare, sto solo vivendo qui, abbatti le montagne, cancella la foresta, non ti preoccupare, sto solo vivendo qui. Non prestare attenzione, sto solo cercando di esistere, non prestare attenzione, sto solamente cercando di esistere. Ho detto troppo ora e il mio nome è in un elenco, non prestarmi attenzione. Lo so, la civiltà vengono e vanno, prima o poi si sbriciolano e cadono. Siamo qui, nel mezzo del tutto. Non ti preoccupare, sto sanguinando adesso, non ti preoccupare, sto solo sanguinando adesso. Una mano dall'alto mi ha in qualche modo strappato il cuore, non ti preoccupare, sto solo sanguinando adesso. Speriamo sotto il radar, speriamo sotto il radar. Vivrò dal vivo fino a quando non mi seppelliranno, speriamo sotto il radar. William Elliott Whitmore, Civilization. I'm just living here. Don't mind me, I'm just living here. Tear down the mountain, cut the forest clear. Don't mind me, I'm just living here. Pay no attention, I'm just trying to exist. Pay no attention, I'm just trying to exist. I've said too much, now my name's on a list. Pay no attention to me. Oh, I know. Civilizations, they come and they go. Sooner or later, they'll crumble and fall. We're just here in the middle of it all. We're just here in the middle of it all. Don't mind me, I'm just bleeding now. Don't mind me, I'm just bleeding now. From above, cut out my heart somehow. Don't mind me, I'm just bleeding now. Under the radar, hopefully. Under the radar, hopefully. I'm gonna live till they bury me. Under the radar,

ancora un viaggio notturno quello che andiamo affrontando. Guardate dal fuori, dal finestrino, guardando fuori dal finestrino quello che succede, quello che si riesce a vedere nella notte. E lo dobbiamo fare adesso provando a fare un salto nel buio, perché il lettore di là non legge un disco vecchio, antico e soprattutto autoprodotto, che infatti non lo legge nemmeno il lettore di là. Quindi passiamo direttamente alla traccia successiva. Non prima di avervi ricordato che abbiamo ascoltato poc'anzi The Raconteurs. E cioè Patrick Keller, anzi alle percussioni e ripercussioni, Brendan Benson, Sing String Ring Ding Dong, così sta scritto sul disco, e il nostro Jack White terzo sta per non so quale motivo, però probabilmente anche perché vive sette vite, siamo qui alla terza, come vocal, frez, stilofono, piano e vital organs, e poi Jack Lee J. Lawrence al basso, al banjo e il backup vocality. E cioè ai controcanti. E dato che avete trillato tanto, ci adattiamo a rifare ricominciare quello che stiamo mandando sotto la nostra voce, cioè l'apertura del disco Turn Blue di The Black Keys. The Black Keys, che hanno fatto veramente una copertina assolutamente psichedelica, ti confonde proprio le idee quando la vai a leggere. La prima traccia si chiama Weight of Love. Da capo a Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Thank you. dove ci porta questa notte il nostro viaggio? Ora inforchiamo la bicicletta, ce ne andiamo per le strade di Firenze, dalle piazze di Genova 2001 a quelle di oggi, l'arroganza del potere, il dovere della memoria. Tra chi era presente domenica scorsa in Piazza della Repubblica a Firenze per il corteo contro la guerra, molti forse non si sono accorti della presenza in piazza di un dubbio individuo che risponde al nome di Giovanni Luperi. Per chi non lo conosce o solo il nome fa drizzare i capelli, basta dire che lui fu uno dei maghi che fecero comparire le Molotov alla scuola Diaz, così da legittimare la macelleria della Diaz e consentire il trasferimento degli arrestati a Bolzaneto con le torture conseguenti. Tutto questo accadeva nei giorni del G8 a Genova 2001, ormai non è solo la nostra memoria, ma sono le carte delle stesse aule del tribunale a sancirlo, senza dimenticare che fu lui a comando della piazza del 13 maggio 1999 durante le cariche proprio davanti al consolato americano a Firenze contro i manifestanti che protestavano contro l'aggressione militare della NATO e la guerra contro la Jugoslavia. Condannato per la fabbricazione di prove fasulle, per accusare ingiustamente le persone picchiate all'interno della Diaz e per non aver impedito le violenze, dopo un avanzamento di carriera non di poco conto come premio della fedeltà e al dovere dimostrato a Genova, non è stato reintegrato in polizia dopo la condanna soltanto perché erano sopraggiunti i limiti di età. Ricordiamo infatti che molti dei suoi colleghi condannati per gli stessi reati sono stati ammessi nuovamente nelle file della polizia allo scadere dell'interdizione dei pubblici uffici. Luperi è stato accolto in piazza con grande amicizia dal capo della Digos fiorentina Pifferi, che lo ha preso fieramente per mano e ha protetto la sua presenza in quanto andava solo a farsi un caffè insieme. Non può e non deve passare sotto silenzio la presenza provocataria, peraltro aggravata dall'atteggiamento cordiale di Pifferi. Lo sbirro e il criminale, viene da dire. Forse Pifferi ha bisogno di consigli di chi prima di lui, sul sangue di Genova, ha costruito la sua carriera, poi sprofondare quando praticamente era già quasi in pensione. E dall'altra parte certi legami non possono scordarsi, visto che entrambi erano presenti alla riunione in cui si pianificò l'assalto alla Diaz e che Pifferi rese dichiarazioni palesemente false al PM durante le indagini, legittimando le bugie di Luperi per poi contraddirsi e trincerarsi dietro un non so o non ricordo durante il processo. A noi questo ricorda la storia di quei torturatori fascisti fuggiti e poi riemersi in America Latina negli anni successivi. La provocazione è stata alta, è come se un torturatore fosse in passato e in mezzo alla madre Piazza De Maio o il repubblichino Carità nelle piazze della Liberazione. Il Luperi, in mezzo a una piazza contro la guerra, ci provoca la stessa rabbia. Forse sono questi i casi dove ogni reazione è legittima, ma prima di tutto occorre la difesa della memoria. Questo è il minimo necessario, ma quello che è anche necessario è che tutti e tutte sappiano, in particolare i più giovani che hanno contribuito all'organizzazione del corteo. Questo schifo di individuo forse pensava che non ci fosse memoria in quella piazza, ma ahimè per lui non è andata così, come non è andata così per molti altri torturatori assassini qui e ovunque. Quindi anche questo è un comunicato che ci è arrivato da Firenze, comunque pubblicato in rete. Scendiamo dalla bicicletta e invece rendiamo, non so, un 1100 di quelli arrugginiti, perché loro sono così, piuttosto sgangherati eppure apprezzatissimi. Dirty Jobs è un lavoro che qualcuno deve pur fare. E questa è la loro Runway Girl. Dirty Jobs a Radio Onda Rossa, 25 o'clock, 06 49 17 50. We'll be right back. beside you. Your heart is pounding loud. Feel the ghost creeping inside you. A figure in the snow. Wondering when the time will come for you to live again. Still you don't listen. No, you're going nowhere. You're just a runaway girl. No, you're going nowhere. You're just a runaway girl from everywhere and everyone. And you don't even know. You're going nowhere. You're just a runaway girl. Ciao.

muova di un aiai. Come with the cerco este stai sei. Come I won't be still my song. Music in this violent town. If you see them car better run down. Police come be steal my zone. Police come and steal my zone. Hey, them no one no music in this Babylon town. Them no one no music in this violent town. So me have to come down, cause we'll be gonna jump in tonight. Yes, them a come bumpy steal my zone. Now one no music in this violent town. See them car and better run and better run and better run. Hey, so we better jump around. So me better jump around, yeah. Revolution a go happening today, but tomorrow begin today. So me sing and play. Watch me now. Family, yeah. Another family. Me not hungry, me not hungry. Comincio da quasi tu e du Senegal mi singi yara banana gadev mon ami. Come on saba Bratislava da ago samaj eh. Vada l'orizzonte mi do only sassi me wear mao trasmitted some good good sense. Se buena chocolate vos se carra ci pao. Io vengo de Rubicania town yeso. Come un rilampago sin light mala yeah, yeah, just a dancing tonight eh. We dancing tonight eh. I make me move it, make me move it, make move if you're feeling it. Dance if you're feeling it. Move if you're feeling it. Dance if you're feeling it. Them a come and won't be steal my sound, sound. No music in all this violent town, town. If you see them care, better run, better run, better run, better run, better run. Yeah. Vabbè, vabbè, 38 minuti dopo la mezzanotte. Un saluto più importante va a tutti e a tutte coloro che ci hanno ascoltato in condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, famigerati, CPR e centri di detenzione per migranti. Chi è costretto da decreti amministrativi a risiedere nei propri comuni oppure nei propri posti di lavoro, insomma. Radio Onda Rossa vi raggiunge ovunque voi siate. Le informazioni in diretta del palinsesto finiscono qua. Vi lasciamo in compagnia della compagna automatica Sonata, con le sue selezioni musicali, le sue repliche. si riprende domani mattina alle 8 con la lettura delle prime pagine dei giornali, rassegna stampa cittadina, redazionali dalla città fino alle 13 quando ci sarà il giornale radio delle 13.30, lo spazio comunicazioni alle 14, tutta scena cinema, Attica Blues oltre al Black Music alle 16, la schiena del Soul, Bella Martis alle 17, Mezzedes del giovedì. E Tabula Rasa, la trasmissione sui libri di ogni giovedì ormai alle 20, alle 23 si chiude con Apostasia e i Cuginetti. Noi vi lasciamo per ora con questa version. Di Swing Easy. Da parte Shot in the Dark. Bella, ovunque voi siate, bella al be. E poi con la sigla finale, bella a tutti e a tutti, ci risentiamo mercoledì prossimo, almeno, credo, non si sa. again.